A tempo di sport di Gigi Garanzini. Stata Milan-Manchester, una partita di cui si può dire tutto e il contrario di tutto, perché il Milan l'ha oggettivamente impostata e interpretata molto bene. Altrettanto indiscutibile che gli sia girata storta nel finale del primo tempo e su quel colpo fortunato di Scholes non c'è dubbio che tutto sia girato e che sia mancato qualcosa, secondo me, nell'intervallo per ristrutturare la squadra, che aveva perso la sicurezza di quel primo tempo in cui il risultato era certamente molto bugiardo. Un gol in queste partite cambia completamente tutto dal punto di vista psicologico. Il Manchester, dopo quel pareggio casuale di Scholes, alla prima occasione in cui è entrato in area, da lì in avanti si è ritrovato da un punto di vista proprio di fiducia in se stesso, e questo poi ha prodotto lo squilibrio del secondo tempo, in cui però il Milan ci ha messo del suo, magari non cambiando certe situazioni o certi giocatori, certe pedine che, insomma, sto pensando in particolare a Beckham. Quello che è molto interessante è che sono arrivate un numero altissimo di mail, tutto di tifosi appassionati milanisti, che la pensano in maniera abbastanza diversa, ma con un fondo comune, cioè quello della gratitudine comunque per una squadra che si è battuta bene e ha commesso alla fine un sacco di errori, ma che secondo la maggioranza di questi ascoltatori sono errori, come dire, strutturali, no? dovuti a questa struttura. Faccio un esempio: Marco Palladini scrivo questo messaggio perché sono sicuro che anche oggi qualche ascoltatore sarà pronto a accusare il povero Leonardo. Io da milanista fino a pochi mesi fa avrei firmato per trovarmi agli ottavi di finale contro il Manchester, creare 7-8 palle gol molto buone, questo è vero, ieri è accaduto e poi non è colpa di Leo se non sono state concretizzate. Credo che più di così sia davvero difficile fare, ed è quindi naturale che se poi la fortuna non ti assiste, anzi assiste gli avversari, possa andare in questo modo. Io per la verità ci aggiungerei che poi ci sono delle colpe difensive non da poco, e che sono quelle che hanno causato il patatrac. Cioè, questa lettura è giusta, ma è incompleta a parer mio. Filippo Ferrara invece scrive: ho ascoltato le parole di Leonardo nel dopopartita, concordo solo sulla possibilità di ribaltare il risultato. Per il resto sono in totale disaccordo circa la buona prestazione del Milan, perché il Milan subisce 3 reti in coppa, questo è grave, in casa è ancora molto peggio, e fatta eccezione per il primo gol fortuito non meno di quello di Ronaldinho, i rossoneri subiscono 2 reti di testa da un calciatore che ha oltre 10 cm meno di statura rispetto ai 2 centrali del Milan. Allora sentiamo che cosa ha detto Leonardo a fine partita. Ma che finita, io ci mancherebbe altro. Credo che oggi è stata la dimostrazione di che quando siamo riusciti a fare quello che è il nostro gioco, abbiamo messo in difficoltà il Manchester, ma tantissimo. Dopo vede un 3-2 e prendere 3 gol, secondo me è stato un tratto della partita, che sono riuscito a fare 2 gol, diciamo, al secondo tempo, che è l'unico momento che forse abbiamo avuto un po' di difficoltà di costruire il gioco. Credo che in primo tempo tutto nostro, poteva anche finire un primo tempo 3-0. Sinceramente l'unico momento che non c'era Antonini, un cross e ha fatto un gol di rimpallo, l'ha preso secondo me la gamba d'appoggio ed è finita dentro, una palla lenta che prende il pallo e entra. Voglio dire, sono tanti episodi, io non voglio neanche stare qua ad analizzare queste piccole cose, io analizzo il gioco. Credo che siamo stati veramente superiori in tanti momenti della partita, in certi altri anche per il ritmo nostro di cercare di imporre il gioco c'è stato anche un momento di pausa, credo che sia normale, e in quel momento lì credo che siamo stati penalizzati totalmente. Io credo che il poco è di poco, io credo che Manchester ha fatto sicuramente buone cose, ma quando ha fatto delle buone cose sono riuscito a trovare i gol, e noi invece no, abbiamo creato, non lo so, 5-6 occasioni e la palla non è finita dentro. È oggettivamente vero che non c'era Antonini, che il Milan era in 10 nel momento in cui l'azione decisiva, poi quella che ha deciso la partita, che l'ha orientata diversamente, è maturata sulla destra, cioè proprio nella zona di Antonini. Se le partite durassero 45 minuti, proseguo con le letture, questo è Pierluigi, il Milan sarebbe una grande squadra e Ronaldinho e Beckham due fenomeni, soprattutto il primo. Fino a quando i due hanno retto i ritmi della partita, il Milan è stato superiore e anche sfortunato. Io sinceramente non ho notato che fosse in campo Beckham ieri sera, se non per una punizione calciata alta in maniera abbastanza dilettantesca e comunque non degna di Beckham. Ho notato che come Ronaldinho, che è stato certamente il migliore del Milan, che se fosse appena stato un pochino assecondato la partita sarebbe andata molto ma molto diversamente. Ieri sera per la seconda volta, scrive Andrea Bonaita da Desenzano, la prima è stata il derby di ritorno, ho visto l'allenatore mettere in campo la miglior formazione possibile, ma poi a partita iniziata ho visto un Leonardo perso, perché lui spende tutto il tempo a parlare con i giocatori ma perde di vista la partita, non è capace di cambiarla o di dare un'impronta a gioco inoltrato, i cambi sono sempre tardivi. Ieri sera Seedorf è entrato al 75 e Pippo all'80 con il Milan in difficoltà dal 50° minuto, e questo devo dire che mi sembra un rilievo abbastanza, non un atto d'accusa, ma un rilievo abbastanza fondato. Un altro rilievo, ma in questo sono assai poco obiettivo, perché gli aficionados sanno che ho sempre avuto un debole per Seedorf, che ora è ovviamente un po' attenuato per ragioni anagrafiche, ma io credo che nelle grandi occasioni, prima di rinunciare a un giocatore così, bisognerebbe pensarci due volte. Mi pare che la controprova ci sia stata nel finale. Sentiamo Seedorf alla fine. Abbiamo visto su 90 minuti che il Milan è riuscito a fare, allora noi dobbiamo fare anche lì una partita diciamo dominandolo diciamo nella fase possesso palla, creando occasione come abbiamo fatto oggi. Vediamo anche che loro sono comunque una squadra con dei limiti dietro, dobbiamo essere più cinici. Io credo che quello ci è mancato, quello è essere proprio cinico avanti la porta, perché il primo tempo davvero è stato uno spettacolo. Noi siamo una squadra offensiva come lo sono anche loro, poi nella fase difensiva ognuno fa la sua tattica, però io credo che il Manchester va messo sotto come abbiamo fatto il primo tempo. Poi soffrono quando non sono in controllo della partita, soffrono, e siamo riusciti a creare occasioni durante tutta la partita. Allora io non vedo perché lì non possiamo fare la stessa cosa con un po' più di attenzione in fase difensiva. Sono ottimista. Vuol dare un parere sull'inguardabile Dida, mi scrive Pietro da Palermo, ma io non so, non capisco cosa poteva fare Dida di diverso ieri sera se non raccogliere tre palloni in porta. Sul primo non ha margine di parata perché è un colpo assolutamente fortunoso, a parte che la palla va a prendere esattamente il paletto basso sullo spigolo. Sugli altri due gol, rivolgersi ai difensori centrali per cortesia, o anche a Bonera in occasione del primo, ma non certamente al portiere. Questi sono alcuni dei commenti vostri, alcuni dei commenti miei. Il mio sogno di tifoso, scrive Andrea Greggio, è quello di vedere sempre una squadra che onora il calcio, come ha fatto comunque ieri sera il Milan, pur con i suoi errori. Mi è piaciuto, pagherei per vederlo perdere così. Beh, qui c'è molto, molto fair play, non so se tutti la pensano a questa maniera. Claudio Tavuglia scrive: ieri sera il Milan ha perso ugualmente con un piccolo Manchester, e anche questa secondo me è una buona considerazione. Tra poco i commenti invece di un personaggio d'autore, un personaggio storico del Milan di ieri, come Pierino Prati. Un commento d'autore, vi dicevo. Dunque, bentornato Pierino Prati. Ciao Pierino. Ciao, buongiorno a tutti. Senti, io credo che il rimpianto sia aumenti per questo, perché non è facile trovare un Manchester, almeno a mio punto di vista, un Manchester United così morbido, così spaesato per più di mezz'ora e creare così tante occasioni. Questo è il mio punto di vista, però vorrei sentire il tuo. Sì, è vero, però c'è da considerare che probabilmente il Manchester in quelle condizioni ce l'ha costretto anche un primo tempo del Milan che forse nessuno se lo aspettava. Bravo. Però a questi livelli, quando hai tutte quelle possibilità di realizzare dei gol, l'errore è proibito commetterne tanti. E purtroppo noi ne abbiamo commessi tanti, abbiamo ottenuto pochissimo per quello che avevamo creato, e alla fine nel secondo tempo, quando c'è stato un attimo di rilassamento, qualche errorino in difesa che nel primo tempo era stata perfetta, ci hanno castigato, anche se loro hanno avuto una palla gol nel primo tempo, sono riusciti anche a arrivare al gol con un colpo fortunato, sì. Però noi dovevamo essere più spietati, a quei livelli bisogna raccattare tutto, non si può lasciare in giro niente contro questa squadra. Senti, mi pare di capire, quindi errori in attacco nel primo tempo e errori in difesa nel secondo, no? Se non capisco male. Ai tuoi tempi il Paron, il tuo allenatore, Paron Nereo, aveva questa domanda. Chi ha sbagliato? Domandava sempre, no? Chi ha sbagliato ieri sera? È vero, ma sai, è stata una bella partita perché è aperta, una partita con tante occasioni da gol, viva anche a livello fisico, un Milan che nel primo tempo forse qualcuno è rimasto stupito da una squadra che creava questi grossi problemi al Manchester. Certo. Però sai, gli errori poi si pagano, li fanno tutti, li hanno fatti davanti, sbagliando le occasioni, nel secondo tempo concedendo qualcosa a un giocatore che in questo momento riesce a tramutare in oro tutto quello che tocca, ecco. Tutto quello che gli passa vicino. Senti, sì. Provo a farti una domanda rapportata alla tua epoca, che è questa. Oggi si gioca a zona per scelta, per necessità, per tutto quello che vuoi. Parlo di difesa. Eccezionalmente, secondo te, quando si incontra una squadra come ieri in cui c'è un solo pericolo pubblico, oggettivamente, e lo hai anche visto, no? Passando i minuti, non è che per caso uno dei due centrali, a parer tuo, poteva, come dire, stringere una marcatura, se non a uomo quasi, su questa bestiaccia di Rooney? È chiaro che io credo che, come nel primo tempo l'avevano controllato benissimo, rendendolo anche nervoso, non so, è vero che Rooney viene ammonito, sicuramente perché nel primo tempo non riusciva a entrare in partita, non aveva palloni giocabili, dunque probabilmente erano stati bravi sia i centrocampisti a filtrare i passaggi per Rooney, sia i difensori ad andarlo a contrastare quando riceveva palla. Però questi sono quei soggetti che, se li lasci perdere un attimo e tu fai un piccolo errorino, perché io credo che sui due gol abbiamo commesso più di un errorino, nel senso che il primo gol è un cross molto lungo, sì, e non molto veloce, perché esatto, viene fatto quasi vicino alla bandierina del calcio d'angolo, dunque io credo che sia stato un cross da 30 metri almeno. Cioè, almeno. E io credo che in questo caso la difesa aveva tutto il tempo per andare a contrastare, certo, i giocatori più vicino a lui, cioè se deve saltare saltiamo un due e cerco di ostacolarmi, e il portiere di riuscire a calcolare questa traiettoria e di andarla a prendere sul secondo palo, dunque credo che siano state delle valutazioni sbagliate di traiettoria, mentre lui è stato bravo ad allargarsi, e in quel momento quando un giocatore del genere lo lasci saltare liberamente così vicino alla porta, e dopo per lui è stato abbastanza facile metterla dall'altra parte. Certo, certo. Mentre il secondo gol, forse hai ragione te, perché lui si è, vedi che cosa era mancato magari nel primo tempo al Milan, lui quella palla in mezzo a Nesta, in mezzo a Thiago Silva. Thiago Silva, la chiede, come certo, dire al suo compagno, certo, qui me la devi evitare. Lui rischia il fuorigioco e per poco, perché i due difensori non salgono a metterlo, certo, perché in quel momento non potevano più marcarlo. In quel momento l'unica era che era salire, fare un passo. Ecco, tutti e due un attimo, boom, fanno un passo in avanti e lui lo mettono in fuorigioco. E lì è questo che insegni tu ai giovani, ai giovanissimi rossoneri che alleni, eh? Sì, no, e credo che in quel momento, certo, abbiano pagato anche il fatto del secondo gol, che il terzo gol è venuto in 10 minuti, in conseguenza che il Milan affondasse completamente una, e anche magari a livello di concentrazione di testa in quel momento non sono stati attentissimi. Parliamo di testa proprio ancora, penultima domanda, testa, io dico nell'intervallo, cioè hai appena preso un gol, cioè sei partito, hai fatto un grande primo tempo, niente da dire, sfortunato eccetera eccetera. Però nell'intervallo sai che da qualche minuto qualcosa è cambiato, non solo il punteggio, perché hai già beccato il gol che vale doppio in casa, ma credi anche, cioè devi capire che a quel punto il Manchester ha preso fiducia e che tu, con l'età che hai collettiva, probabilmente stai andando in prospettiva in discesa. Non è il momento di provare a cambiare qualcosa? Ma io credo che nello spogliatoio la squadra, vero, saranno stati un po' battuti per il pareggio immeritato che il Manchester aveva raggiunto, però nello stesso tempo sono convinto che fra di loro dicevano lo battiamo, perché un primo tempo del genere sì, non è possibile non andare in vantaggio oppure andare ancora a fare gol. E difatti l'inizio del secondo tempo è stato subito delle azioni pericolose per noi, poi ha cominciato il calo, e soprattutto quando c'è stato il cambio loro sulla fascia destra, che è uscito Nani, è entrato Valencia, ecco, questo secondo me è stato quello che con quei cross in quella maniera, che ne ha fatti due o tre, ha trovato la chiave per scardinare la difesa del Milan, ecco. Però sai, quando sei convinto che stai giocando bene, Hai creato tante occasioni, tu pensi che di crearne ancora, ma di fatti ne ha create ancora. È vero, anche alla però fine. Purtroppo è stata la percentuale troppo bassa di realizzazione. Troppo alta la loro in rapporto alle poche palle gol create, è troppo bassa quella del Milan. Perché, anche se fosse stato un calo fisico, che c'è stato, però poi quando hanno fatto il 3-2, hanno fatto gli ultimi 10 minuti, che avevano ancora birra in corpo, perché hanno creato ancora due o tre occasioni da lì alla fine per poter arrivare al 3-3. Ecco, a quel punto forse magari se riuscivi a arrivare sul pareggio ti dici vabbè, ok, ci va bene, ce la giochiamo tutta, anche se è difficile in casa loro. Certo. Mentre sai, con due gol di scarto diventa veramente, sai, il calcio poi insegna che devi fare la partita perfetta. Cioè il rendimento di tutti deve essere altissimo, devi trovare la tua squadra un po' sottotono, certo, e non devi sbagliare nulla, perché altrimenti dispiace, perché il Milan ha disputato per tre quarti di partita una buonissima partita. Allora chiudiamo con un consiglio per la partita perfetta di Manchester. Senti un po', prendine tre del tuo Milan, perché a Manchester qualcosina avete combinato voi, no? Abbiamo messo il fieno in cascina all'andata. Certo, e quindi lì è maturata la Coppa dei Campioni del 69. Prendine tre di quel tuo Milan per la partita di ritorno. Prova. Allora, metto dentro, perché tu vai, va bene. Allora, uno è Pierino Prati. Sì, poi metterei Rivera. Due. Chi mettiamo dentro lì? Il Ragno, no? Sì, è il portiere. Ecco, è il portiere. E Curicini tre. Con Curicini, Prati e Rivera. Senti, facciamo una deroga. Io metterei anche Robertino Rosato su Runi. Ma sai, lì l'importante secondo me è di non andare all'assalto e di essere infilati subito con un gol, perché allora a livello morale devi giocare la partita attento e cercare di fare gol al più presto senza rischiare niente, perché se riesci a fare un gol giocando bene, e dopo a livello psicologico cambia. Noi non abbiamo poco da perdere ormai con questo risultato. Certo. Dunque, però non devi andare all'arrembaggio, altrimenti in casa loro ti affondano. Io sento questo noi, no? La partecipazione che hai ancora, e penso che davvero Curicini, Rivera e Prati giocheranno forse il ritorno di Manchester, no? Perlomeno idealmente. Ci prepariamo. Un abbraccio, Pierino. Grazie a tutti voi. Grazie. Buon pomeriggio. Grazie. Era Pierino Prati che ci ha dispensato qualche pillola di saggezza per il mio e qualche chiave di lettura molto interessante su ieri sera, anche sulla proiezione, pur essendo ovviamente impossibile questo giochino che abbiamo fatto alla fine. A Monaco di Baviera leggo un'agenzia di poco fa: un migliaio di tifosi della Fiorentina, con tante famiglie, anche con bambini, con la sciarpa viola al collo, hanno invaso la piazza centrale di Monaco, la Marienplatz di Monaco di Baviera. Temperatura rigida, 0 gradi appunto a mezzogiorno, per stasera sono previsti meno 6. E sono attesi in totale tra 6 e 7 mila tifosi della Fiorentina per questa andata degli ottavi di finale con il Bayern. La vigilia di Prandelli. A memoria stiamo bene, ci ricordiamo molto bene, sicuramente è una partita molto molto difficile, però noi siamo orgogliosi di essere qua e ci giocheremo questi ottavi di finale con tutta la convinzione. Sicuramente abbiamo analizzato la situazione, abbiamo forse capito quale poteva essere la giusta interpretazione, ho avuto dei segnali molto positivi da parte dei giocatori, quindi io sono molto ottimista in questo momento. Paradossalmente può essere la partita che ci può dare veramente la possibilità di ritrovare noi stessi. Beh, psicologicamente credo che sia vero, perché la Fiorentina sta andando così male che, insomma, peggio è difficile, e non c'è come una grande occasione e una grande ribalta in cui non c'è moltissimo da perdere, tutto sommato, non c'è come un'occasione del genere per provare a ribaltare la situazione. I vostri interventi in diretta, Maurizio da Torino, buongiorno. Buongiorno Gigi. Dica. Allora, volevo parlare appunto del Milan, della mia squadra. Sono rimasto, non dico deluso ieri sera, perché mi sono visto la partita, ma devo dire che, se lei nota, noi il primo gol noi lo prendiamo perché Antonini si è fatto male. Mm-hmm. Si è fatto male nel momento in cui nasce l'azione, poi c'è stata solo a posizione del Sunani, e quindi praticamente l'ha messa in mezzo, ha fatto gol, certo. Poi anche con tantissimo sedere, scusi l'espressione. Esattamente. Comunque, come Ronaldinho nel gol d'apertura. D'apertura, per carità di Dio, questo è sicuramente vero. Però un'altra cosa, con l'uscita di Antonini, quando è entrato l'altro, al posto di Nani, l'altro, Valdés, logicamente, c'è stato praticamente coso lì, il Favalli. Ha fatto fare quel cross, quello che adesso mi ricordo, dunque... Valencia ha crossato e Favalli non è riuscito a chiudere. Favalli ha fatto un po' di fatica, giustamente, con Valencia. D'altra parte Favalli è un rincalzo, ma è uno della rosa, è un giocatore di grande esperienza, ha messo dentro all'inizio del secondo tempo una palla spettacolosa per Pato, di testa, ma spettacolosa, d'incontro, che Pato ha mandato alta. Quello era di nuovo uno dei tanti palloni per o chiudere la partita nel primo tempo o tornare in vantaggio nel secondo, e non è bastato. Poi un cross a un giocatore come Valencia, su cui il Manchester ha puntato per sostituire Ronaldo, non sarà mai Ronaldo, ma insomma, glielo devi concedere, gliel'hanno concesso, ma io penso che le colpe vere siano da quest'altra parte, dove è arrivato il colpo di testa di Rooney. Rooney non può saltare indisturbato in quella maniera, l'ha detto bene Pierino Prati prima, su un cross che arriva giù con la neve, tanto è lento e parabolico. Mauro Rimini, buongiorno. Signor Garantini, scusi se la disturbo. Dica. Io volevo chiedere a lei, perché lei forse ne sa molto più di me, lunedì ho sentito un'intervista del presidente Preziosi, sì, dove parlava di lealtà sportiva, sì, di Del Piero, che sarebbe dovuto andare dall'arbitro a dire che il fallo non c'era. Però io mi chiedo, Preziosi come può parlare di lealtà sportiva? È una bella domanda, è una bella domanda postuma, no? Indubbiamente, perché sono passate 48 ore. Io sì, Mauro, la carriera di Preziosi credo che parli da sola, da Saronno a Como ai primi tempi di Genova, quindi è indubbio che le parole lealtà o etica in bocca a Preziosi abbiano un discreto risvolto comico involontario, questo è vero. Però è anche vero che sono, lo dicevo già ieri, sono piccole miserie domenicali, no? Che secondo me hanno diritto di cittadinanza a fatica ancora il lunedì, il mercoledì sono superate proprio, io credo. Luca da Genova, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garanzini. Dica. Sono un tifoso milanista orgoglioso della squadra, devo dire la verità, dispiaciuto per come è andata il risultato ovviamente, ma convinto che ribalteremo un 3-2 bugiardo per quanto mi riguarda, perché abbiamo giocato meglio noi. Poi è chiaro che, come si suol dire, chi segna ha sempre ragione. Noi purtroppo al momento ci mancano gli attaccanti, Pato è stato, mi dispiace dirlo, ma praticamente inesistente. Posso dire, oh, mi spiace, non volevo, non ho questi poteri di far cadere la linea. Volevo dire che sono mancati gli attaccanti, ed è oggettivo, e lo ricordava prima Pierino Prati, sono mancati anche i difensori, perché io ritornerei alle origini di questa partita, cioè alla vigilia. Lo 0-0 secondo me non era un bruttissimo risultato per il Milan, eh? Io non dico che il Milan l'avrebbe dovuto firmare, ma insomma era un risultato da ragionare. Quando dopo due minuti vai sull'1-0, per carità, il Manchester è talmente inesistente in quel momento che è automatico quasi, no? Continuare a spingere, perché stai giocando bene, perché ti viene naturale, perché loro non si ritrovano. Però ragazzi, con molta più cautela secondo me di come il Milan ha fatto, perché a quel punto sull'1-0 hai la qualificazione in mano, o comunque ce l'hai molto vicina, e non è detto che l'eclisse di una squadra come il Manchester debba durare per l'intera partita, no? Come in effetti poi non è durata. Sto guardando nuove convocazioni di Maradona per un amichevole di lusso con la Germania a Amburgo il 3 marzo, cioè tra due settimane, Germania-Argentina, ha chiamato di italiani, ha chiamato Andukar, cioè il portiere del Catania, ha chiamato Samuel, ha chiamato Burdisso, ha chiamato Bolatti, il neo acquisto della Fiorentina, Pastore del Palermo e Diego Milito. Non ci sono tracce nella convocazione né di Zanetti, di Cambiasso, di Lavezzi, di Cruz, di Maxi Rodriguez, gente che in passato in nazionale c'era stata. Tocca, mi pare, a Umberto da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Dica. Io sono tifoso interista, però ho visto ieri sera la partita. Allora, al di là del fatto della supremazia del Milan come possesso palla nel primo tempo, però gol fortunoso loro e gol fortunoso quello del Milan. Sì, però tre o quattro occasioni in più, nel senso che il loro gol fortunoso è alla prima occasione in cui entrano fisicamente a pestare l'area. Prima c'era stato solo un bel sinistro da fuori di Rooney, mentre il Milan di occasione ne ha già create molte, mi pare. Sui due gol che ha preso il Milan di testa, io il primo un po' di colpa di gliela do, perché area piccola, in mezzo all'area, pallone molle, 9 volte su 10 deve essere del portiere, più, al di là del fatto che due difensori lo marcavano e dietro il secondo palo, però, lo stacco di Rooney, ed è l'unica maglia del Manchester che c'è in area in quel momento. È vero, però ragazzi, io un attimo di colpettina lì gliela darei, perché se uno hanno sempre segnato area piccola 9 volte su 10 la palla del portiere. Queste sono antiche minchiate, no, tanto per semplificare, dipende se il cross esce, se era dente, se è teso, se è molle. Quello di ieri sera è mollissimo, però è anche vero che se Dida dà un colpo d'occhio mentre, e deve guardare chi ha davanti mentre parte il pallone, non può non accorgersi che ci sono Nesta, Thiago Silva e Bonera, che devono occuparsi in quel momento soltanto di Rooney. Sono tanti, Che Nesta è bravissimo, è che non nessuno dei due riesce a scavare sempre sull'uomo, cioè, l'ho visto anche contro l'Inter, anche stanno spesso, tengono le persone in mezzo, cioè non vanno a chiudere sull'uomo, e quello lì è l'errore, perché sì, se mette un po' di pressione magari sbaglia, ecco. Ieri sera certamente qualcosa hanno sbagliato, poi era anche una serata storta, perché alla fine sono riusciti a impastarsi l'uno contro l'altro su un corner in cui se salta uno solo dei due è 3-3, sicuro, perché sennò tutti e due hanno staccato bene, nessuno del Manchester ha intuito la traiettoria del calcio d'angolo, ed era ciascuno dei due poteva colpire indisturbato, invece si sono disturbati l'uno con l'altro. Era una serata così per la coppia centrale difensiva. Mauro da Imperia scrive una mail molto lunga di disamina di argomenti, insomma, che più o meno ormai abbiamo trattati. Ricorda l'assenza di Boriello e fa bene, perché un giocatore come Boriello ieri sera sarebbe servito, e come, sia da un punto di vista realizzativo che da un punto di vista di snodo avanzato della manovra. E poi dice: in Manchester nel complesso, Mauro Pellegrino, Imperia non mi è sembrata una squadra in grado di vincere la Coppa, e io sono completamente d'accordo con lui. Ho l'impressione, dopo aver visto un po' tutte le altre, che insomma da ieri sera è difficile in ogni caso che possa uscire una vincitrice o una finalista, perché a questo punto è abbastanza nettamente favorito il Manchester, ma non mi sembra granché parente, insomma, del Manchester, oppure appena parente del Manchester delle ultime stagioni. Stefano, anche lui dalla provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la possibilità di farci parlare e per la trasmissione. Io volevo dire una cosa, sono un tifoso interista, quindi ho guardato la partita, diciamo così, un po' distaccato, no? Io non riesco a capire semplicemente una cosa, non so se lei è d'accordo con me. Com'è possibile che una società come il Milan, magari anche per cause non proprio contingenti, comunque proprio non riesco a capire che praticamente gli manca completamente la difesa. Cioè, sia gli esterni che i centrali non sono, a parer mio, a parte Nesta quando è al massimo della forma, dei giocatori da Milan. E parlo da tifosi interista, ho visto giocare delle squadre del Milan che giocavano in maniera stupenda e straordinaria, e non capisco neanche com'è possibile che i tifosi, la maggior parte dei tifosi del Milan, anzi, sentivo una persona prima che diceva che era orgoglioso di questa squadra. Io capisco il tifo, ma cioè, se paragono il Milan di ieri sera con i difensori che aveva ieri sera al Milan semplicemente di 6 o 7 anni fa, cioè E cosa fanno? Cosa fanno? Si sparano? Oppure passano la vita a guardare sul comodino le foto di Baresi, Tassotti, Maldini e non lo so, cioè, credo che se ne faranno una ragione e quindi cercheranno. Spesso e volentieri si è orgogliosi di chi è meno forte di altri e però riesce a fare grandi cose, ad avere un grande rendimento. Io personalmente non lo capisco questa... Capisco questo stato d'animo, no? E questa reazione. Io, per esempio, non sarei particolarmente orgoglioso di una squadra che può spendere e espandere, che può comprare tutto quello che c'è in giro. Cioè, faccio l'esempio per evitare facili derive, faccio l'esempio della Spagna. Cioè, il Barcellona quest'anno ha speso una somma delirante addirittura per Ibrahimovic, però dopo tanti anni se la poteva permettere. E comunque è rientrata attraverso altre cessioni, eccetera, altri movimenti. Ma il Barcellona si è costruito in casa tra un Real che colleziona figurine a colpi di centinaia di milioni di euro e il Barcellona che si costruisce in casa e gioca tra l'altro tre volte meglio del Real Madrid, se parliamo di qualità di manovra. Non so, io credo che istintivamente uno sia più orgoglioso, credo che un catalano abbia in questo momento più ragioni di essere orgoglioso del Barça di quanto un madridista ce l'abbia il Real. Poi Lana, siamo sulla lana caprina e quindi tanto vale fare strade e autostrade. Finalmente ho recuperato una mail che era rimasta sepolta in questi giorni, si riferisce a fatti della scorsa settimana, però credo l'apprezzerete ugualmente, firmata Gianni Somigli da Incisa Valdarno, e cioè un fiorentino, che scrive: dopo i fatti degli ultimi giorni credo che sia opportuno prendere provvedimenti contro i facinorosi, saranno anche una piccola parte, ma episodi come quelli che abbiamo visto, con oggetti che volano, cazzotti, minacce, non sono più tollerabili. Ben venga dunque il pugno d'oro, DASPO, firma obbligatoria, divieto di trasferta a Roma, solo così forse riusciremo a debellare il fenomeno della violenza in Parlamento. L'ho trovata spettacolosa e mi dispiace di non averla letta e valorizzata tempestivamente, cioè una settimana fa quando è arrivata. Ne scrivete troppe e quindi ogni tanto capita di perdere l'orientamento. Non capita invece oggi di perdere l'appuntamento con la rubrica di Nicola Filippone. Sentiamo cosa ha scovato per il 17 febbraio. Sembra ieri. 17 febbraio 1957. Il Milan coglie una difficile vittoria in casa del Palermo per 2-1. Un successo che consente ai rossoneri di Gipo Viani di proseguire una fuga che culminerà nel sesto scudetto nella storia del club. Non è casuale che le reti del Milan siano firmate da Carlo Galli e Gastone Bean, i due attaccanti chiamati a sostituire il grande Nordahl, passato alla Roma. A fine campionato Bean totalizzerà 17 reti e Galli 14, mentre Nordahl, il secondo marcatore più prolifico nella storia della Serie A, si fermerà a 13. Beh, insomma, tra questa Marcord e Pierino Prati prima, oggi fioccano i ricordi rossoneri. Lorenzo, provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, volevo dirle, è vero che il Manchester non ha fatto una grande partita, però è anche vero che ogni volta che è venuto in Italia, con la Roma, con la Juve, con l'Inter, non è che abbia mostrato questa grande potenza. Penso che la differenza l'abbia fatta da una parte Rooney e da una parte Huntelaar. E volevo rispondere al signore di prima sulla difesa del Milan. Io juventino, Thiago Silva lo farei giocare sempre nella Juve. Grazie a lei. Credo anche Zaccheroni non piangerebbe avesse Thiago Silva, anche se c'è gente onusta, carica onusta di gloria nella difesa della Juve, però insomma Thiago Silva. Detto questo, però, Thiago Silva ieri sera qualche uscita palla al piede di troppo, insomma sono cose comunque secondo me che contro il Manchester United non si fanno per principio. Vincenzo ha chiamato da Fermo, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini, un piacere parlare con lei. Grazie. Mi riferisco alla partita anch'io del Milan di ieri sera. Secondo me la mano dell'allenatore nel Milan si vede poco, perché quando è in fase di ripossesso palla mi sembra che sia tutto, diciamo, delegato alla fantasia dei giocatori e si vede poca organizzazione offensiva. Fermo restando che avendo un Ronaldinho in squadra non può che essere forse in questa maniera. E stessa cosa dicasi per la difesa, perché una difesa che si comporta in questa maniera mi sembra che non sia molto allenata, non so come dire. Beh, Vincenzo, però cioè, era Milan, non era Milan Peretola, giocavano col Manchester United, quindi secondo me c'è un fondo di verità in quello che lei dice, ma soprattutto nelle correzioni in corsa più che nell'impostazione della partita, perché sinceramente è vero che il primo gol del Milan è fortunoso, però è vero comunque che grazie a un errore degli avversari Ronaldinho colpisce al volo in piena libertà in area e insomma, credo che se anche non trovava lo stinco la palla entrava. Poteva addirittura scegliere di stopparla perché l'uomo più vicino l'aveva a 6 o 7 metri. Continuano a creare occasioni da gol. Io credo che. E quindi il meccanismo evidentemente funziona perché, ripeto, stavano giocando contro i vice campioni d'Europa, oltre che pluricampioni d'Inghilterra da un sacco di anni, eccetera. È nel secondo tempo, a parer mio, che c'è una scarsa lettura critica della partita, o comunque troppo ritardata, perché oltretutto Gattuso non è più Gattuso, o comunque sta facendo fatica a tornare a essere Gattuso, ma io prima di lasciare in campo quel Beckham, che non è certamente più Beckham, ammesso che Beckham sia mai stato Beckham, no, nel senso del calciatore oltre l'uomo immagine, ad altissimo livello intendo, ovviamente, era una riflessione che si poteva fare. Seedorf fuori insomma, ha dimostrato quando è entrato che cosa, no? Perché Ronaldinho ieri sera di assist ne ha messi tanti dentro, ne ha messi un buon numero, però l'unico assist colto da un compagno è stato colto di tacco dal signor Seedorf, insomma, qualcosina vorrà dire, in quella circostanza, in una partita di quello spessore, di quella intensità e di quel calibro, vuol dire. Alfredo, Napoli. Sente? Certo. Ah, io volevo dire solo questo, ormai avete detto tutto sulla partita. Forse troppo anche, ha ragione. Però a me mi ha colpito l'atteggiamento dei tifosi del Milan, che vanno via da 10 minuti a un quarto d'ora dalla fine, proprio come se non ci credessero più. A me è quello che mi ha colpito, perché è una squadra che sta in Champions League, che fino all'ultimo minuto c'è la possibilità di farne due. A me quello francamente mi ha fatto vedere le braccia, ha fatto capire che gli stessi tifosi non credevano in quello. Era una fase della partita in cui la tentazione, se sei allo stadio la tentazione può anche esserci, se sei allo stadio pensi al traffico, magari hai fame, magari hai freddo, secondo me ci può stare in quel momento, perché il Milan era al tappeto, cioè era un 3-1 che poteva semmai diventare un 4-1 e non un 3-2, e invece hanno avuto torto, comunque lei ha ragione, perché dopo il 3-2, se il Milan trova il modo di pareggiare sia su quel colpo di testa che su un'altra occasione, non c'era nulla da dire, quindi che abbiano avuto torto è oggettivo. Non è andata molto meglio a un ex di lusso, come di lusso allora, perché adesso nella Real sta combinando davvero poco, come Kakà. Kakà ha commentato una doppia sconfitta a questo punto, sia quella del Real che quella del suo ex Milan. Cominciamo da quella del Real Madrid a Lione. Non è stata una bellissima partita per noi, penso che abbiamo persi molti palloni, abbiamo sbagliato molti passaggi e questo alla fine ci ha pregiudicato un po'. Adesso andiamo a giocare in casa e speriamo che i nostri tifosi ci sostengano molto bene, perché credo che questa squadra può fare molto ancora in questa Champions. Poi, visto che una sconfitta non bastava, per farsi un pochino di male, Kakà ha commentato anche quella del Milan. Ci hanno detto che alla fine il Milan ha perso la partita 3-2, mi dispiace per i miei compagni, per i tifosi, per Leonardo, ma non è finita, la Champions sono due tempi, finito il primo tempo, adesso è difficile, ma vanno a giocare la seconda parte all'Old Trafford. Così come la seconda parte, il Real se la giocherà in casa contro il Lione, partendo comunque da un risultato scomodo, che è uno 0-1 mai particolarmente facile da rimontare nel calcio moderno. Siamo arrivati alla conclusione anche della puntata di oggi. Vi ricordo l'indirizzo www.radio24.it per il riascolto di questa o di qualsiasi altra puntata, di qualsiasi appuntamento quotidiano di Radio 24. C'era Fabio Cantadori in cabina di regia, c'erano Flavio Suardi e Franco Piantanida in redazione. Buon pomeriggio.